LETUSCELTERIVELANOCHISEI. La cosa importante riguardo ad un uomo non è dove andiamo quando siamo costretti ad andare, ma dove andiamo quando siamo liberi di andare dove si vuole. Gli apostoli andavano in prigione e questo non è sufficiente per rivelare il perché vi andassero contro la loro volontà. Ma quando essi uscivano dalla prigione e andavano dove volevano, immediatamente si aggiunsero a coloro che pregavano. Da questo impariamo qualcosa riguardo a loro. Le scelte della vita, non le coercizioni, rivelano il carattere. Un uomo è assente dalla chiesa la domenica mattina? Dove sarà? Se egli è in ospedale per una operazione, la sua assenza non dice nulla riguardo a lui se non che egli è ammalato. Ma se egli si trova in un campo di golf, allora la sua assenza ci dice molto. Essere ricoverati all'ospedale è coercitivo, andare al campo di golf è volontario. L'uomo è libero di scegliere ed egli sceglie di giocare invece di pregare. La scelta rivela ciò che egli è. Le scelte rivelano sempre la natura dell'uomo. Il vero carattere di un popolo è rivelato dagli usi che lo caratterizzano nella sua libertà. Le persone schiave fanno ciò che è loro detto di fare perché non sono libere di fare ciò che vogliono. E la nazione libera che rivela il suo carattere mediante le scelte volontarie. L'uomo che ha dovuto lavorare duramente durante la giornata è felice di ritornare a casa per la cena e potersi riposare a letto. Egli ha poco tempo per fare altre cose, ma in quelle fortunate nazioni che godono dell'apporto di macchine moderne ci è la possibilità per gli uomini di lavorare di meno e di avere più tempo a loro disposizione sia durante la giornata sia durante la settimana. Essi hanno perciò il tempo di fare tutto ciò che desiderano. Essi sono liberi di autodistruggersi mediante le loro scelte. E molti di loro stanno facendo proprio questo. L'indifferenza con cui milioni di credenti guardano alla loro libertà religiosa oggi è veramente deprecabile. Essi preferiscono godere di divertimenti e di diversivi, trascurando la vita spirituale. Si ricordano di pregare soltanto quando si trovano in uno stato di grande necessità. Questo comportamento è molto diffuso e rivela una grande superficialità spirituale nei credenti che agiscono così. Il Vangelo di Cristo è un messaggio di libertà mediante la grazia, e noi dobbiamo ricordarci che è Cristo a renderci liberi. Ma che cosa noi facciamo con la nostra libertà? L'Apostolo ammonì che alcuni credenti della sua epoca traevano vantaggi personali dalla libertà spirituale e pensavano ai vantaggi materiali nel nome di Cristo. Le nostre scelte rivelano che genere di persone siamo, ma ci è l'altra faccia della moneta. Noi possiamo anche determinare con le nostre scelte che genere di persone vogliamo diventare. Noi uomini non siamo soltanto nella condizione di essere, ma anche in quella del divenire. Noi ci troviamo in una lenta spirale che si muove verso l'alto o verso il basso. Noi non ci muoviamo singolarmente, ma in compagnia e lo facciamo mediante l'attrazione della cosiddetta similarità. Io penso che sia buono per noi ricercare la nostra condizione spirituale mediante la prova della compatibilità. Quando siamo liberi di andare, dove andiamo? Qual è il genere di compagnia con la quale amiamo stare? Dove vanno i nostri pensieri quando sono liberi di sbizzarrirsi? Quando i pensieri del lavoro, degli affari o della scuola ci abbandonano temporaneamente e noi possiamo pensare a ciò che vogliamo fare invece che a ciò che dobbiamo fare, che cosa pensiamo veramente? La risposta a queste domande ci può dire molto su di noi stessi, più di quanto possiamo immaginare. Dobbiamo perciò cercare di rispondere sinceramente per sapere veramente chi siamo. A. W. Tozer.